GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. L'Inter continua la sua corsa a scudetto nel segno di Cambiasso e Balotelli. Sono loro infatti a firmare il 2-0 sulla Fiorentina, che permette ai nerazzurri di mantenere i 4 punti di vantaggio sulla Roma, Corsara a Udine. Sentiamo Cambiasso a Sky Sport. Abbiamo fatto una bella partita ante una delle migliori squadre che ci sono in questa Serie A, quindi siamo molto contenti. Manca una partita in meno, la distanza è la stessa, quindi dobbiamo pensare a quello. Nel pomeriggio i giallorossi avevano vinto al Friuli 3-1 in rimonta. Il romanista De Rossi. Partita delicata, difficile, a maggior ragione quando sono andati in vantaggio. Poi non è la prima volta che rimontiamo un risultato difficile, lo facciamo in casa, fuori casa. Questo è sintomo di grande squadra, di grande voglia, di grande passione per questo sogno che abbiamo noi, no? Che speriamo di realizzare. Si infiamma anche la lotta a salvezza dopo la 33esima. La Regina supera 1-0 la Sampdoria, il Cagliari vince 2-1 al Livorno, 1-1 tra Parma ed Empoli, mentre il Genoa inguaia il Torino battendolo per 3-0. Il Napoli supera 2-0 l'Atalanta, 1-1 tra Lazio e Siena. Per il motociclismo, Gran Premio di Portogallo e in MotoGP, primo successo in carriera per lo spagnolo Jorge Lorenzo su Yamaha. Più che mai sono in una nuvole e questo momento è un momento che non si può descrivere. Secondo Pedrosa, terzo Valentino Rossi. Mi sono dovuto solo difendere, ecco, è stata una gara dura per noi, però terzo non è male, è un buon podio importante aspettando piste più adatte a noi. In classifica mondiale in testa Lorenzo e Pedrosa con 61 punti, poi Rossi a 47. E ora spazio al ciclismo con la Parigi-Roubaix. Alla fine nel velodromo di Roubaix non c'è storia, il belga Tom Boonen mette la freccia e stacca senza pietà sia lo svizzero Cancellara che l'italiano Dario Ballan, da oltre 30 km i compagni di fuga del vincitore. È un lampo, una firma d'autore quella di Boonen, che chiude una splendida Roubaix arrivata al traguardo con mezz'ora di anticipo, dopo quasi 260 km, 52 dei quali di pavé. Bella corsa perché è combattuta da campioni veri che non fanno sconti. Boonen, 27 anni, fiammingo, nato sulle pietre e già trionfatore in due giri delle Fiandre, non conquistava una grande classica dal 2006. Nel 2005 aveva già vinto la Roubaix, ma la stampa belga, cattivella, lo rimproverava d'aver perso l'antica rabbia. Si sbagliava. Boonen, che mirava invece al bis, stava nascosto per colpire meglio. Bene anche Ballan, corridore di buona volontà che è andato al massimo. Peccato che il suo massimo non è abbastanza per Boonen, talento purissimo del ciclismo del Nord. Dario Ceccarelli, GR24, il Sole 24 Ore. Per il basket, a 3 giornate dalla fine della stagione regolare, la vittoria della Virtus Bologna su Varese sancisce la retrocessione di Scafati. Nelle gare domenicali successi anche per Siena, Avellino, Montegranaro, Treviso e Milano, che supera Cantù. Il tecnico dei milanesi, Caia. Abbiamo messo una grandissima energia, abbiamo messo una grandissima intensità. Si è vista su tutto il campo questa intensità, da quello che abbiamo fatto in difesa, che siamo stati a anticipare ogni pallone, coi piccoli, coi lunghi, vicino a canestro, lontano a canestro, essere aggressivi sui pick and roll, sulle loro uscite, abbiamo lasciato loro veramente pochi canestri. I play-off del campionato di pallavolo dopo Trento vanno in semifinale Roma, che elimina Macerata 2-0 ed incontrerà proprio i trentini, e Cuneo, che ha eliminato 2-0 Montichiari e affronterà la vincente di Treviso Piacenza, unico quarto di finale che si deciderà alla bella. Per l'atletica va al keniano Lel la maratona di Londra, 12° il campione olimpico Stefano Baldini. E chiudiamo con il nuoto, un'altra medaglia per gli azzurri ai mondiali in vasca corta di Manchester, argento nei 100 stile libero per Filippo Magnini dietro l'americano Adrian. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14, ancora una buona giornata da Dario Ricci.